ad alta voce. Manuela Mandracchia legge La parete di Marlene Haushofer. Traduzione di Ingrid Arbeck. Il 27 giugno, un giorno di temporale, dopo cena udii un flebile lamento provenire dall'armadio. L'avevo lasciato aperto andando nella stalla e lì si trovavano alcune vecchie riviste di Luise. La gatta le aveva scelte per partorire, precisamente sulla copertina della Elegante Dame. Faceva rumorosamente le fusa, alzando verso di me uno sguardo orgoglioso e felice dai suoi grandi occhi umidi. Mi permise perfino di accarezzarla e di ammirare i suoi piccoli. Uno era grigio tigrato come la madre e l'altro bianco candido e arruffato. Quello grigio era morto. Lo portai via per seppellirlo vicino alla stalla. La gatta non parve accorgersene. Era totalmente assorbita dalle cure per quella piccola cosa bianca e arruffata. Lince infilò la testa nell'armadio per curiosare. Si prese una soffiata furiosa e fuggì via all'aperto, indignato e impaurito. La gatta rimase nell'armadio, ostile a qualsiasi tentativo di spostamento. Lasciai dunque lo sportello aperto, fissandolo con uno spago, di modo che non potesse aprirsi del tutto e il gattino si trovasse al riparo nella penombra. Si rivelò, del resto, una madre piena di fervore, e solo di notte si allontanava per poco tempo. Ora non aveva bisogno di cercare la sua preda, la nutrivo quanto bastava di carne e di latte. Al decimo giorno ci presentò il suo piccolo. Lo portò nel mezzo della stanza tenendolo per la collottola e lo posò sul pavimento. Aveva ormai un aspetto abbastanza grazioso, bianco e rosa. Restava pur sempre il gattino più arruffato che mi fosse mai capitato di vedere. Fuggì via gemendo per rifugiarsi nel calore materno e la presentazione si concluse. La gatta era molto orgogliosa e ogni qualvolta andava a prendere il suo piccolo nell'armadio, dovevo accarezzarla e felicitarmi con lei. Come tutte le madri, era pienamente consapevole di aver generato qualcosa di assolutamente unico. E difatti era così, perché nemmeno due giovani gatti si somigliano come due gocce d'acqua, non esteriormente e tantomeno nelle loro piccole anime ostinate. Poco dopo il piccolo strisciò da solo fuori dall'armadio, correndo tra i piedi sia a me che a Lince. Non mostrava la minima paura e Lince, appena la gatta non si aggirava nelle vicinanze, l'osservava e l'annusava con curiosità. Ma la gatta stava quasi sempre lì vicino e seguiva con occhi diffidenti quei tentativi d'approccio. Chiamai il gattino Perla, visto che era così bianco e rosato. Dalla pelle delle sue minuscole orecchie trasparivano le vene. Più tardi grossi ciuffi di pelo gli ricoprirono i lobi, ma da cucciolo in diversi punti gli si vedeva luccicare la pelle tra il pelo fioccoso. Allora non sapevo ancora che fosse femmina. Eppure qualcosa nel suo musetto tenero e un po' schiacciato mi sembrò femminile. Perla si sentiva molto attratta da Lince e prese a infilarsi insieme a lui nella nicchia della stufa per giocare con le sue lunghe orecchie. Di notte però dormiva con sua madre nell'armadio. In poche settimane mi resi conto che Perla, quella piccola cosa tutta arruffata, stava per trasformarsi in una bellezza. Si ricoprì di un pelo lungo e setoso e prese l'aspetto di un gatto d'angora, solo l'aspetto, ben inteso. Qualche antenato dal pelo lungo era resuscitato in lei. Perla era un piccolo prodigio, ma già allora sapevo che era nata nel luogo sbagliato. Un gatto bianco, dal pelo lungo, in mezzo al bosco è condannato a una morte precoce. Non aveva alcuna speranza e forse per questo l'amavo tanto. Un nuovo carico di preoccupazioni gravava su di me. Tremavo pensando al giorno in cui sarebbe uscita all'aperto. E infatti non passò molto tempo che già giocava davanti all'uscio con sua madre, oppure con Lince. La vecchia gatta era molto premurosa con Perla. Forse sentiva ciò che io sapevo, cioè che la sua creatura era esposta al pericolo. Ordinai a Lince di badare al gattino e mentre eravamo in casa, il cane non le levava gli occhi di dosso. La vecchia gatta, stanca infine dalle estenuanti incombenze materne, fu ben felice di vedere Lince atteggiarsi a protettore di Perla. La piccola aveva un'indole un po' diversa dai soliti gatti domestici, più tranquilla, dolce e affettuosa. Spesso sedeva lungamente sulla panca davanti alla casa a osservare una farfalla. I suoi occhi azzurri dopo alcune settimane si erano fatti verdi e rilucevano come pietre preziose nel muso candido. Aveva il naso più schiacciato della madre e la testa incorniciata da uno splendido collaretto. Ogni volta che la vedevo seduta sulla panca, le zampe anteriori poggiate sulla coda folta, lo sguardo fisso e attento rivolto alla luce, mi sentivo rassicurata. Cercai di convincermi che sarebbe diventata un gatto domestico dalla vita contemplativa e che, al massimo, come adesso, sarebbe andata a sedersi sotto la veranda. Se ripenso a quella prima estate, la ricordo molto più offuscata dall'apprensione per le mie bestie che da quella per la mia propria disperata situazione. La catastrofe mi aveva sollevato da una grande responsabilità e senza che lì per lì me ne fossi accorta, mi aveva imposto un nuovo fardello. Quando infine fui in grado di farmi un'idea più chiara della situazione, ormai non ero più in condizione di modificarla. Non credo che la mia condotta fosse dovuta a debolezza o a un certo sentimentalismo. Seguivo semplicemente un istinto radicato in me che non potevo combattere se non volevo distruggere me stessa. La nostra libertà si trova in ben tristi condizioni. Probabilmente non c'è mai stata altro che sulla carta. Quella esteriore, si può dire, non sia mai esistita e tantomeno ho conosciuto una persona che fosse interiormente libera. E non ho mai percepito questo fatto come umiliante. Non riesco a vedere cosa ci sia di poco onorevole a portare la soma impostaci come qualsiasi altro animale e alla fin fine morire come qualsiasi altro animale. Non so nemmeno cosa sia l'onore. Nascere e morire non è onorevole, succede a tutte le creature e al di là di questo non significa proprio nulla. Nemmeno gli inventori della parete hanno agito secondo una libera decisione della loro volontà, ma hanno semplicemente seguito la loro innata brama di sapere. Solo nell'interesse dell'ordine generale si sarebbe dovuto trattenerli dal mettere in pratica la loro invenzione. Ma preferisco soffermarmi sul 2 luglio, il giorno in cui realizzai che la mia vita dipendeva dalla quantità di fiammiferi rimasti. Questo pensiero, come tutti i pensieri spiacevoli, mi aggredì alle 4 del mattino. Fino a quel momento, per quanto riguarda i fiammiferi, avevo vissuto spensieratamente, senza considerare che ogni zolfanello bruciato poteva costarmi un giorno di vita. Saltai dal letto e andai a prendere la scorta nella cameretta. Ugo, da forte fumatore, aveva pensato ai fiammiferi. Si era procurato perfino una scatola di pietrine per l'accendino che teneva sul tavolo. Purtroppo non sono mai riuscita a farlo funzionare. Possedevo ancora 10 scatolette di fiammiferi, 4.000 zolfanelli più o meno. Secondo i miei calcoli potevano bastare per 5 anni. Oggi so di aver calcolato con sufficiente precisione. Facendo molta economia, la scorta può durare altri 2 anni e mezzo. Tirai un sospiro di sollievo. 5 anni a quel tempo mi parvero un'eternità. Non credevo che avrei consumato tutti gli zolfanelli. Oggi il giorno dell'ultimo fiammifero sembra essersi avvicinato in modo tangibile, ma perfino oggi continuo a ripetermi che non arriverò a quel giorno. Trascorreranno 2 anni e mezzo e poi il mio fuoco si estinguerà. Tutta la legna che mi circonda non potrà impedirmi di morire di fame o di freddo. Eppure in me si ostina una speranza delirante. Riesco solo a sorriderne con indulgenza. con la stessa caparbietà, impenitente, ho sperato da bambina di non morire mai. Immagino questa speranza come una talpa cieca acquattata dentro di me a covare la propria illusione. Non potendola scacciare, sono costretta a lasciarle libero corso. Un giorno il colpo fatale ci abbatterà, lei e me, e allora anche la mia talpa cieca lo saprà, prima di morire con me. Mi fa quasi pena. Le avrei augurato un po' di successo per tanta ostinazione. D'altra parte è appunto delirante e devo ritenermi fortunata se riesco a tenerla sotto controllo. C'è poi anche un'altra questione di importanza vitale, quella delle munizioni. Ho scorta per un anno. Da che Lince è morto, consumo meno carne. Durante l'estate, di tanto in tanto, pescherò delle trote e per il resto mi affiderò a un buon raccolto di fagioli e di patate. Nel peggiore dei casi potrei sempre nutrirmi di patate, latte e fagioli. Ma latte ne avrò solo se Bella aspetta un altro vitello. In ogni caso temo molto meno la fame del freddo e dell'oscurità. Se si arriva a quel punto, dovrò abbandonare il bosco. Non ha senso arrovellarsi tanto il cervello sul futuro. Devo solo badare a mantenere la mia capacità di adattamento e a restare in buona salute. D'altronde, da qualche settimana ho smesso di preoccuparmi eccessivamente. Ignoro se sia un buon segno o meno. Forse tutto sarebbe diverso se sapessi che Bella aspetta un vitello. A volte penso pure che sarebbe meglio se questo non si avverasse. Ritarderebbe solo l'inevitabile fine, per caricarmi di un nuovo fardello. Eppure sarebbe bello avere ancora una volta qualcosa di nuovo e di giovane. Soprattutto farebbe bene alla povera Bella, che ora se ne sta sola e abbandonata nella sua stalla buia ad aspettare. Adesso in fondo mi piace vivere nel bosco e mi sarà penoso lasciarlo. Ma se riuscirò a sopravvivere laggiù oltre la parete, tornerò. Talvolta cerco di immaginare come sarebbe stato bello crescere le mie bambine quassù, nel bosco. Per me credo sarebbe stato un paradiso, ma dubito che le mie bambine l'avrebbero apprezzato altrettanto. No, non sarebbe stato certo il paradiso. Non credo che ne sia mai esistito uno. Un paradiso potrebbe esistere solo al di fuori della natura e un paradiso simile non riesco a immaginarlo. Mi annoia pensarci e non ne provo alcun desiderio. Il 20 luglio iniziai a tagliare il fieno. Faceva un caldo estivo e nel prato vicino al ruscello l'erba era alta e grassa. Portai la falce, il rastrello e il forcone nel fienile e in seguito li lasciai lì, non essendoci più nessuno che potesse rubarli. Mentre me ne stavo lungo la riva del ruscello a osservare il prato scosceso, ebbi la sensazione che mai più sarei riuscita a portare a termine quel lavoro. Da ragazza avevo imparato a falciare e a quel tempo mi ero divertita, dopo le lunghe ore trascorse a sedere nelle aule dall'aria viziata. Ma erano passati 20 anni e certamente avevo da tempo perso la pratica. Sapevo che si può falciare solo la mattina presto, oppure la sera, quando è già caduta la rugiada, e per questo mi ero mossa da casa alle 4. Dopo i primi colpi di falce mi resi conto di possedere ancora il ritmo e rilassai i muscoli contratti. Naturalmente ero ancora molto lenta e facevo una grandissima fatica. Il secondo giorno fu molto più facile. Il terzo fu un giorno di pioggia che mi impose una tregua. Piovve per 4 giorni, mentre il fieno marciva sul prato, non tutto, ma la parte che si trovava all'ombra. A quell'epoca non comprendevo ancora gli svariati segni dai quali ora riesco fino a un certo punto a prevedere il tempo. Non sapevo mai se sarebbe rimasto sereno o se il giorno seguente sarebbe piovuto. Per tutta la fienagione dovetti combattere con l'instabilità del tempo. In seguito riuscii sempre a riconoscere il momento propizio, ma durante quella prima estate mi trovai in balia del clima. Ci misi 3 settimane per terminare la falciatura del prato. La colpa non fu solo dell'instabilità del tempo, ma anche della mia inettitudine e debolezza fisica. Quando in agosto il fieno si trovò infine all'asciutto nel fienile, ero talmente esausta che sedetti sul prato e piansi. Fui colpita da un grave attacco di scoraggiamento e per la prima volta afferrai con lucidità quale colpo si fosse abbattuto su di me. Ignoro cosa sarebbe successo se la responsabilità per le mie bestie non mi avesse costretto a sbrigare perlomeno i lavori indispensabili. È un periodo che ricordo malvolentieri. Ci vollero 15 giorni perché riuscissi a reagire e a riprendere a vivere. Lince soffrì molto per la mia depressione, dipendente in tutto e per tutto com'era da me. Tentava continuamente di rianimarmi e se non gli davo retta si nascondeva sotto il tavolo non trovando altro da fare. Alla fine credo mi facesse talmente pena che cominciai a fingermi di buon umore fin quando non scivolai di nuovo in uno stato d'animo più calmo e sereno. Non ho un temperamento lunatico. Penso fosse semplicemente la spossatezza fisica a privarmi della capacità di resistere. In fondo avevo tutti i motivi per essere soddisfatta. L'enorme lavoro della fienagione era compiuto. Cosa importava se mi era costato troppa fatica? Per voltare pagina, sarchiai il campo delle patate e mi accinsi a tagliare la legna per il prossimo inverno. Affrontai questo lavoro con un po' di buonsenso, probabilmente costretta dalla mia debolezza. Una grossa catasta, esattamente 7 metri per 7, si trovava subito sopra la casa, accanto alla strada. Si trattava del rifornimento invernale di un certo signor Gassner, come diceva una scritta in gesso azzurro. Il signor Gassner, chiunque fosse, non aveva più bisogno di legna da ardere. Posai i ciocchi su un cavalletto preso nel garage e mi resi subito conto di non possedere alcuna abilità nell'uso della sega. Continuava a incepparsi nel legno e dovevo faticare per estrarla. Il terzo giorno finalmente imparai, cioè le mie mani, braccia e spalle impararono. E improvvisamente fu come se per tutta la vita non avessi fatto che segar legna. Lavoravo lentamente ma con assiduità. Presto le mani si coprirono di bolle che si aprivano stillando il loro umore. Allora interrompevo il lavoro per 2 giorni e le curavo col sego. Quell'attività mi piaceva, perché potevo svolgerla vicino agli animali. Bella se ne stava nel prato vicino al bosco e ogni tanto guardava dalla mia parte. Lince gironzolava sempre nelle vicinanze e sulla panca c'era Perla seduta al sole, gli occhi socchiusi, intenta a seguire il volo dei calabroni. E all'interno dello chalet la vecchia gatta dormiva sul mio letto. Per il momento tutto era in ordine e non avevo bisogno di preoccuparmi. Di tanto in tanto strigliavo Bella con la spazzola di nylon di Ugo. A lei piaceva molto e mi lasciava fare, rimanendo assolutamente immobile. Spazzolavo pure Lince e spulciavo i gatti, servendomi di un pettine a denti fitti trovato nella capanna del guardacaccia. Sia loro che Lince avevano sempre qualche pulce ed erano riconoscenti per il trattamento. Per fortuna quelle pulci non sembravano apprezzare il sangue umano, erano dei grossi insetti d'un marrone giallastro simili a coleotteri, quasi incapaci di saltare. Di quelle il bravo Ugo non aveva tenuto conto, trascurando le riserve di polvere insetticida. Probabilmente ignorava perfino che il suo cane avesse le pulci. Bella non aveva parassiti, d'altronde era una bestia molto pulita, sempre attenta a non accovacciarsi nel proprio sterco. Naturalmente mi sforzavo di tenere la stalla meticolosamente pulita. Lì accanto si andava lentamente formando la concimaia. Avevo intenzione di servirmene in autunno per concimare il campo delle patate. Tutto intorno prosperavano delle ortiche giganti, una piaga quasi inestirpabile. D'altra parte, ero continuamente alla ricerca di germogli d'ortica da usare al posto degli spinaci, l'unica verdura reperibile da queste parti. Tuttavia mi ripugnava utilizzare a questo scopo le ortiche della concimaia. Credo fosse uno stupido pregiudizio di cui fino a oggi non sono riuscita a liberarmi. Le giovani cime d'abete erano ormai coriacee, d'un verde scuro, e non avevano più il buon sapore della primavera. Malgrado ciò continuavo a masticarle, avevo un inesauribile bisogno di verdura. Ogni tanto nel bosco trovavo anche della cetosella, dal sapore gradevolmente agro. Ne ignoro il nome in botanica, ma la mangiavo volentieri già da bambina. Ovviamente la mia alimentazione era molto monotona. Mi erano rimaste poche provviste e aspettavo con impazienza il raccolto. Come tutto in montagna, anche le patate sarebbero maturate in ritardo rispetto alla pianura, lo sapevo. Attingevo con molta parsimonia le mie provviste, nutrendomi soprattutto di carne e di latte. Ero diventata magrissima. Talvolta osservavo con stupore la mia nuova immagine nello specchio da toiletta di Luise. Mi ero tagliata i capelli troppo cresciuti, servendomi delle forbici per le unghie. Adesso erano lisi e schiariti dal sole. Avevo il viso scarno e abbronzato. e le spalle ossute come quelle di un ragazzo. Le mani, sempre ricoperte di piaghe e di callosità, erano diventate i miei principali arnesi. Da tempo mi ero tolta gli anelli. Chi mai adornerebbe i propri arnesi con anelli d'oro? Averlo fatto in passato mi parve assurdo e ridicolo. Stranamente sembravo più giovane allora di quanto non apparissi quando conducevo ancora una vita comoda. La matura femminilità della quarantenne mi era caduta di dosso insieme ai riccioli, all'incipiente doppio mento e ai fianchi tondeggianti. Al contempo persi la consapevolezza d'essere una donna. Il mio corpo, più intelligente di me, si era adattato, riducendo al minimo indispensabile gli inconvenienti della femminilità. Potevo tranquillamente scordarmi d'essere una donna. A volte ero una bambina alla ricerca di fragole, poi di nuovo un giovane uomo che segava la legna, oppure, quando sedevo sulla panca a contemplare il tramonto con Perla sulle ginocchia ossute, una creatura decrepita, priva di sesso. Oggi quel fascino singolare che allora emanavo mi ha completamente abbandonata. Sono sempre magra, ma muscolosa, e la faccia si è coperta ad una fitta rete di minuscole rughe. Non sono né brutta né attraente. Più simile a un albero che a un essere umano, un piccolo tronco bruno e coriaceo a cui occorre tutta la sua forza per sopravvivere. Se oggi ripenso alla donna di prima, quella donna col piccolo doppio mento che si affannava tanto per apparire più giovane, provo poca simpatia per lei. Ma non voglio giudicarla troppo severamente. In fondo la possibilità di strutturare coscientemente la sua vita non le si era mai presentata. Da giovane, senza averne coscienza, aveva preso su di sé un pesante fardello e aveva fondato una famiglia. E in seguito si era sempre trovata imprigionata in un'opprimente abbondanza di preoccupazioni e di doveri. Solo una gigantessa avrebbe saputo liberarsi, e lei non era una gigantessa, da nessun punto di vista. Solo una donna incessantemente sopraffatta e tormentata, di media intelligenza, per di più in un mondo ostile alle donne, estraneo e inquietante. Di tante cose sapeva poco, di molte non sapeva nulla. In generale, nella sua testa regnava una spaventosa confusione. Bastava giusto per la società nella quale viveva, altrettanto ignorante e affannata quanto lei. Ma vorrei dire una cosa in suo favore. Avvertì sempre un cupo disagio e si rese conto di quanto tutto ciò fosse insufficiente. Per 2 anni e mezzo ho sofferto perché quella donna era così malattrezzata per la vera vita. Ancora adesso sono incapace di piantare correttamente un chiodo. E al pensiero della porta che dovrei aprire per Bella, mi viene la pelle d'oca sulla schiena. Naturalmente non era previsto che un giorno mi sarebbe toccato aprire il varco d'una porta in un muro. D'altronde non so quasi nulla in genere. Non conosco nemmeno i nomi dei fiori nel prato vicino al ruscello. Li ho appresi dai libri e dalle illustrazioni durante le lezioni di storia naturale e li ho dimenticati, come tutto il resto di cui non riuscivo a farmi un'idea. Ho trascorso degli anni a fare calcoli servendomi dei logaritmi e non ho la più pallida idea del loro scopo e di quale sia il loro significato. Mi è stato facile apprendere le lingue straniere, ma mancandomi le occasioni non ho mai imparato a parlarle e ne ho scordato la grammatica e l'ortografia. Non ricordo quando sia vissuto Carlo VI e non so con precisione dove si trovino le Antille né chi ci viva. Eppure ero sempre una buona allieva. Non so, nel nostro sistema scolastico ci deve essere qualche pecca. Abitanti di un mondo sconosciuto mi considererebbero la deficiente della mia epoca. E credo di sapere che alla maggior parte dei miei conoscenti non andrebbe meglio. Mai più avrò la possibilità di colmare queste lacune, anche se riuscissi a trovare tutti i libri accatastati nelle case morte. Non sarei più in grado di ricordare ciò che leggo. Alla mia nascita mi fu data una chance, ma né i miei genitori, né gli insegnanti, e tantomeno io stessa fummo in grado di coglierla. Ora è troppo tardi. Morirò senza averne fatto uso. Nella mia prima vita sono stata una dilettante. E anche qui nel bosco non sarò mai nulla di diverso. Il mio unico insegnante è ignorante e incolto quanto me, perché sono io stessa la mia unica maestra. Da alcuni giorni ho capito di sperare ancora che un essere umano legga questa cronaca. Non so perché lo desideri, in fondo non cambia nulla. Ma il mio cuore batte più in fretta se immagino che occhi umani si posino su queste righe e mani umane voltino queste pagine. È molto più verosimile che questa cronaca venga mangiata dai topi. Ce ne sono tanti di topi nel bosco. Se non avessi la gatta, la casa sarebbe invasa da tempo. Ma un giorno la gatta non ci sarà più. E i topi divoreranno le mie provviste. E infine anche l'ultimo pezzetto di carta. A loro probabilmente la carta scritta piace quanto quella vergine. Forse la grafite della matita li farà vomitare, non so neppure se sia tossico o meno. È una strana sensazione scrivere per i topi. Ogni tanto devo immaginare che sto scrivendo per degli esseri umani. Allora è un po' più facile. Manuela Mandracchia ha letto La parete di Marlene Haushofer, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio, Ornella Bellucci e Filippo Travaglio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.